Iti biso bhagava arahang sammā sambuddho vicca carana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanang buddho bhagavati.